24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Paola Nania all'appuntamento con 24 ore in Europa. Oggi lunga pagina dedicata alla crisi del debito sovrano e alla paura del contagio. La speculazione ha puntato in modo particolare sull'Italia. Piazza Affari ha chiuso a meno 4%, con i titoli bancari particolarmente esposti perché detengono molti titoli a rischio. A Bruxelles intanto l'Eurogruppo si è riunito per parlare ufficialmente solo di Grecia e della possibilità di un default selettivo. Parleremo anche di Murdoch e del Tour de France. E partiamo dalla crisi del debito sovrano. Giornata difficile per l'euro, arrivato sotto quota 1,40 sul dollaro, e giornata difficile soprattutto per le borse europee. Parigi ha chiuso a meno 2,7, Francoforte meno 2,3 e Londra ha limitato le perdite a meno 1%. La paura è che si estenda a macchia d'olio la crisi dei debiti sovrani, in modo particolare di quello greco. Sotto attacco soprattutto Piazza Affari, che ha bruciato 16 miliardi di capitalizzazione. Questo mentre a Bruxelles era in corso l'Eurogruppo per parlare di Grecia e non solo. Allora facciamo il punto nei servizi. Nuova giornata di passione per Piazza Affari, che come venerdì scorso ha fatto nettamente peggio delle altre borse europee, a dispetto della decisione della Consob di porre freno alle vendite allo scoperto. Il FTSE MIB ha accusato un tonfo del 3,9%. I bancari hanno registrato la performance peggiore, con Unicredit meno 6,3% e Intesa San Paolo meno 7,7% in caduta libera. Gli istituti di credito del resto risentono del contraccolpo della performance dei titoli di Stato italiani, dei quali hanno una presenza massiccia nei propri portafogli. Sono inoltre andate male le azioni della Galassia Berlusconi, con Mediaset in calo del 3,8% e Mondadori del 4,5%. I titoli pagano la sentenza sul lodo Mondadori della Corte d'Appello, che ha condannato Fininvest al risarcimento di 560 milioni di euro a CIR. Anche le quotazioni della holding di Carlo De Benedetti però hanno accusato un calo del 7,2% sull'onda delle prese di beneficio dopo il rialzo vantato da inizio anno e pari al 30%. I titoli comunque hanno pagato anche le scommesse su possibili nuovi colpi di scena sul lodo Mondadori. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. L'eco del lunedì nero delle borse, in particolare quella milanese, arriva a Bruxelles nel bel mezzo di un Eurogruppo che, pur tra mille smentite ufficiali, comincia ormai a considerare gli scenari peggiori: un default selettivo per la Grecia e un possibile contagio della crisi esteso all'Italia. I mercati impazziti tolgono il sorriso a un ministro dell'economia, Giulio Tremonti, apparso scuro in volto. Proprio Tremonti, insieme agli altri colleghi, firma nel primo pomeriggio l'atto costitutivo del nuovo fondo salva stati permanente dell'Eurozona, che diverrà operativo tra 2 anni. Una cerimonia quantomeno paradossale in un clima da ultima spiaggia per l'attuale fondo salva stati. Stime provvisorie indicano che un eventuale pacchetto di salvataggio per il bel paese potrebbe obbligare a portare la massa globale di aiuti europei a 1.500 miliardi. La Germania ha fatto sentire la sua voce in una giornata delicatissima. La cancelliera Angela Merkel ha chiesto al premier Silvio Berlusconi di mandare segnali urgenti sul fronte del risanamento dei conti. La Merkel si è comunque detta fiduciosa del fatto che Roma prenderà le misure necessarie. Linea della fiducia rimarcata a Bruxelles dal ministro delle finanze Wolfgang Schäuble. Non credo che l'Italia sia un caso problematico, ha detto, aggiungendo che la nostra manovra è molto convincente. Sul fronte greco i 17 ministri dell'Eurozona cominciano a porre le basi del secondo pacchetto di aiuti, che potrebbe coinvolgere i privati e prevedere persino un default selettivo. Il ministro delle finanze ellenico Evangelos Venizelos ha chiesto ai partner un segnale chiaro e forte per la stabilità non solo della Grecia ma dell'Eurozona e oltre. Bruxelles intanto va all'attacco dell'agenzia di rating. Da Parigi il commissario del mercato interno Michel Barnier ha affermato che giocano un ruolo troppo importante e devono essere sottoposti a una sorveglianza europea. Allo studio c'è pure l'ipotesi di proibire alle stesse agenzie di valutare i paesi sottoposti a un programma internazionale di aiuti. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore, Bruxelles. Ma tornando all'andamento di borse e all'attacco speculativo che ha toccato soprattutto l'Italia, perché è successo proprio ora? Sergio Nava lo ha chiesto a Cinzia Alcidi, economista del CEPS di Bruxelles. Penso che l'elemento scatenante sia di natura politica, incertezza politica. Fino adesso i mercati finanziari hanno tenuto l'Italia in una situazione diciamo speciale rispetto agli altri paesi periferici, perché essenzialmente la politica fiscale è stata rigorosa e c'è una certa fiducia nei mercati nei confronti del ministro Tremonti. Ora è chiaro che ci troviamo in una situazione di spaccatura politica E questo ha generato una fortissima incertezza. I mercati temono che l'incertezza politica spinga verso manovre che siano più demagogiche, populistiche, quindi un aumento della spesa e quindi una situazione di mancato controllo della spesa pubblica. Come se ne esce? L'impressione è che a questo stadio le parole non servono più, non bastano più. Quindi è necessaria un'azione molto forte. I tempi stanno stringendo. Più aspettiamo, più diventa rischioso. Quindi la situazione è veramente una situazione di emergenza molto elevata. Vedremo che cosa verrà fuori oggi dall'Eurogruppo, ma c'è bisogno di una decisione e probabilmente anche con la possibilità che dei soldi siano messi sul tavolo. Per fermare la speculazione servono decisioni immediate sulla manovra correttiva, dice invece l'ex premier Romano Prodi, presidente della Commissione europea dal 1999 al 2004. Lo ha intervistato Sebastiano Barisoni. Ma il problema oggi non è mica il governo. Qui mica ci lasciano il tempo di pensare a quale governo, eccetera. Il problema è prendere delle decisioni immediate sulla finanziaria. Cioè avere 3 o 4 punti da cambiare assieme, se si può avere un accordo su questi 3 o 4 punti che diano un messaggio forte, perché è chiaro, se noi facciamo una finanziaria in cui tutto viene rinviato al 13 e al 14, come la finanziaria di adesso, in cui tutto sembra velato e in qualche modo non definito, i mercati sanno benissimo, e poi se intorno a questo nascono poi le liti e gli insulti, il mercato internazionale dice, ma perché non colpirli, no? Sono i più deboli, sì. E fa il sistema degli orati e curiazi. Chiudiamo questa lunga pagina dedicata alla crisi del debito e spostiamoci a Londra. Rupert Murdoch starebbe prendendo in considerazione una soluzione a sorpresa a tutti i suoi problemi: vendere l'intera News International. La clamorosa rivelazione arriva dal biografo Michael Wolff in un post su Twitter. Lo scandalo intercettazioni illegali ha già portato alla chiusura di News of the World e a diversi arresti. L'Italia nel 2010 occupa la 7ª posizione in Europa tra i paesi che commettono più violazioni in materia di diritti umani. Il dato, elaborato dalla Presidenza del Consiglio sulla base delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ci vede precedere da Turchia, Russia, Romania, Ucraina, Polonia e Bulgaria. E ora il ciclismo col Tour de France. Ieri giorno di riposo, ma ritiri e cadute hanno fatto lavorare soprattutto la magistratura transalpina. Riprende la tortura, 10ª tappa dopo che il gruppo è stato decimato in questi giorni dalle cadute. A casa tanti uomini che ambivano al podio di Parigi, dal britannico Wiggins allo slovacco Brajkovic, dal belga Van den Broek all'americano Horner, passando per Zabrinsky e Vinokurov. Si riprende il cammino dopo il giorno di riposo con una nuova maglia gialla, ora sulle spalle del beniamino di casa Thomas Vauclair, il quale dopo 7 anni è tornato a vestire la maglia più ambita. Ora precede di 1.49 Luis Leon Sanchez e di 2.26 Cadel Evans. Frank Schleck a 2.29 mentre Andy a 2.37. Sesto Martin a 2.38 e pari tempo con Velitz. Ottavo Cloden a 2.43 mentre il nostro Ivan Bass è 11° a 3.37 e Damiano Cunego è 12° ad un solo secondo dal Varesino. Intanto il Tribunale di Aurillac ha deciso di aprire un'inchiesta volta a stabilire le cause e le responsabilità dell'incredibile incidente occorso domenica quando una vettura del seguito ha investito Juan Antonio Flecha e Johnny Ogerland. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, L'Orient Cantal. Sono una delle rock band più amate in Italia, ma prima dell'estate live nel nostro paese, gli After Hours si sono concessi un tour europeo. Una bellissima esperienza ha raccontato a Marta Cagnola il leader Manuel Agnelli. L'impatto in Europa è stato diverso a seconda delle città. In alcuni posti i club sono molto belli, molto ben attrezzati, e c'è un pubblico magari misto, no? 50% italiani che stanno all'estero, che vengono dall'Italia, 50% lì locali. E sono le situazioni più stimolanti, perché in realtà sei confortato dalla gente che viene dall'Italia, che ti supporta. Però nello stesso tempo sei stimolato dalla gente che non ti conosce o ti conosce poco, che quindi non ha pregiudizi anche positivi su di te, no? E quindi sei portato comunque a convincerli e a capire che cosa veramente funziona nella tua musica e che cosa invece funziona soltanto perché c'è stato passaparola, le copertine, le interviste, eccetera eccetera. È una cosa molto sana, secondo me, il fatto di rimettersi un po' in gioco, e in altri posti come a Londra la preponderanza di italiani era tale che il concerto è stato celebrativo, diciamo, quindi, però facciamo comunque gran bella figura, devo dire, grazie a chi ci viene a vedere, grazie anche al nostro pubblico. Ed è tutto, l'appuntamento con 24 ore in Europa si chiude qui. Grazie in regia Mauro De Angeli, un saluto da Paola Nania. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.